Mezza una strada fosse lì, ci si marita a Dio, solo per nata via, strada fosa che niente mai basato, e io che me ne moro te lascio partire. Strada fosa, solo come una volta, solo questo destino, amore, va così.